Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Tutti Fermi, questa è la rubrica Motori. Io sono Dario. Io sono Mattia. Oggi parleremo della prima gara del motomondiale svolta in Qatar, nel circuito dello Sail. Per quanto riguarda la MotoGP, durante le qualifiche hanno sorpreso i meravigliosi tempi dei debuttanti Jorge Lorenzo e Tosanand. Ricordiamo che lo spagnolo Lorenzo, reduce da un ottimo campionato nella 250, si piazza in pole position, battendo il record di Rossi, stabilito nel 2007, di poco più di un secondo, e subito dopo, appena due decimi, si piazza Tosanand. Lui è reduce da un campionato in Superbike. In terza posizione l'ex compagno di Rossi, Colin Edwards, con un distacco di 5 decimi e mezzo. Il campione Stoner si piazza solo quarto, con 7 decimi di distacco alla pole di Lorenzo. Rossi solo settimo, penalizzato dalle Bridgestone, che nelle qualifiche non hanno funzionato a dovere. Alla partenza della prima gara, lo spagnolo Pedrosa è scattato brillantemente e in poche curve è arrivato in testa. Un po' male Stoner, che è rimasto indietro. Dopo pochi giri, il dottore, dopo aver scrutato per bene le sue vittime, passa in testa alla corsa, però le gomme non hanno funzionato come dovuto e Rossi è costretto a rallentare, finendo la gara in quinta posizione. Nel frattempo, Stoner passa in testa, al suo seguito c'è il debuttante Lorenzo e lo spagnolo dell'Honda Pedrosa in terza posizione. In quarta posizione si piazza Dovizioso, anche lui come Lorenzo alla prima gara di MotoGP, dopo un emozionante duello con Rossi. In 2.50 vince l'italiano Pasini con la sua Aprilia, anche lui al debutto. Dopo il suo podio, scoppia in lacrime di gioia. Nella 125, dopo 7 anni, si vede un britannico in pole, il 17enne Bradley Smith. Ora ci chiediamo, con tutti i successi dei debuttanti, starà nascendo una nuova generazione di campioni che metterà in pensione vecchi campioni come Rossi? Rossi dice di stare tranquilli, tanto ci sono ancora 17 gare.